Le ragazze e le donne che vivono con il virus dell'AIDS devono avere accesso ai farmaci antiretrovirali. Così il dottor Lee Yong-wook, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel comunicato ufficiale che celebra la giornata mondiale contro il virus dell'HIV. Circa il 47% delle persone infette sono infatti donne, categoria sulla quale non si hanno informazioni sicure né dati certi sul livello delle cure mediche. Numeri in crescita, secondo l'OMS, anche a causa delle violenze contro le donne che continuano a perpetrarsi, soprattutto nelle zone di guerra. Dati allarmanti che parlano di una donna su cinque a livello globale che ha subito violenze fisiche o sessuali. Secondo studi realizzati in Ruanda, Sudafrica e Tanzania, il rischio di HIV è 3 volte maggiore per le donne che hanno subito violenza rispetto a quelle che non le hanno subite. E per questo la violenza contro le donne non può essere più tollerata a nessun livello, ha commentato il dottor Peter Piot, direttore esecutivo dell'UNAIDS, l'istituto specializzato delle Nazioni Unite che lavora su HIV e AIDS. Nel suo ultimo rapporto, l'UNAIDS parla di 13 milioni di donne infette solo nell'Africa subsahariana, la regione al mondo più colpita, su un totale di quasi 40 milioni di persone con il virus dell'HIV a livello mondiale. Nell'Asia del Sud-Est, il periodo 2002-2004 ha visto un incremento del 50% di diffusione del virus, con situazioni che diventano critiche in Cina, Indonesia e Vietnam. E neanche il continente europeo è immune dal propagarsi del virus. Nello stesso periodo, 2002-2004, l'aumento è stato del 40%, soprattutto concentrato in Ucraina e nella Federazione Russa. Negli Stati Uniti sono principalmente le donne d'origine afroamericana e ispanica ad essere le più colpite. Tra i 35 e i 44 anni, l'AIDS è per loro la terza causa di decessi. In Europa, invece, tra il 97 e il 2002, le infezioni da HIV sono praticamente raddoppiate. Numeri da capogiro anche per quanto riguarda le spese in cure mediche. La spesa totale è praticamente triplicata tra il 2001 e il 2004, passando da 2,1 miliardi di dollari agli attuali 6,1 miliardi di dollari. Ovviamente ancora più risorse sono necessarie in futuro, ha continuato il dottor Piot, soprattutto se consideriamo che appena il 10% delle persone infette riceve cure mediche appropriate. Solo coniugando prevenzione con trattamenti medici riusciremo a fermare l'epidemia, afferma il dottor Lee Yong-wook, direttore dell'OMS. L'obiettivo a breve termine è quello di somministrare le cure a 3 milioni di persone entro il 2005, un obiettivo ambizioso che dovrà fare i conti con un'epidemia in crescita e una relativa diminuzione di informazione sul tema che rischia di far inopinatamente abbassare la guardia. Francesco Di Asio, Amisnet.